WhatsApp che trasmettiamo con piacere. Ce n'è arrivato un altro. Adelio, la rivoluzione avanza su tutto il fronte occidentale. Ostia è presa, Ostia è presa. Adelio! Ringraziamo Adelio che è all'ascolto di Radio Risacca. Voci dai quartieri, una radio che dal 2020 trasmette sulle finte frequenze dell'internet, seguita, insomma, una radio che nasce per dare voce alle varie zone di Roma che hanno contribuito e hanno animato questo progetto di Voci dai quartieri. La settimana scorsa hanno trasmesso dal Laurentino 38 e anche qui da Ostia approfittiamo per mandare solidarietà allo squat del Sesto Ponte. Uno spazio storico, sotto sgombero ormai da qualche tempo, a cui tutti e tutte noi mandiamo la nostra solidarietà rivoluzionaria. Braccio enorme da Ostia a L38. Allora adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi continuiamo con qualche programmino improvvisato qui in radio. Bimbi dal basso sicuramente, redazionale, DJ Mamma. Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti. Sabato prossimo una puntata dal bilancione, una puntata speciale di Music Therapy dedicata al Pomata. E ancora prima, il 19 luglio, mercoledì, ricomincia la stagione teatrale sempre al bilancione occupato, nell'estate che contrassegna i 10 anni di occupazione e autogestione di uno degli spazi qui sul territorio, sempre no porto. Ed è terminata la musica di sottofondo, quindi adesso che parlo senza musica sembro solo un analfabeta. Se vuoi mandiamo dei vocali che abbiamo ricevuto. Spottino Radio Risacca. Your online radio, the new online radio that makes you happy. This is Radio Risacca. Radio Risacca Radio. Risacca on. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Se non lo avete capito, questa è Radio Risacca, la radio che spacca. Che spacca, Radio Risacca, la radio che spacca dal 2020 sulle frequenze di Voci dai quartieri. Yeah. Radio Risacca. Yeah. Radio Risacca. Yeah. Radio Risacca. Ah. Sono DJ Bo Pirla e ascolto Radio Risacca quando posso, ogni volta col mio telefonino. Si ascolta online con il telefonino perché Bo Pirla c'ha un telefonino. All'ascolto mi collego su voci dei quartieri. Troppo figa Radio Risacca, ci sta dentro un casino. Ascoltala anche tu. È una radio che si sente tutti i giorni, ma una volta che l'ascolti ci ritorni. Musica e parole dal profondo del tuo cuore, tanta passione e tanta voglia di volare. Non è una radio come tutte le altre, ha una chiara idea che guarda oltre. A volte può sembrarti non professionale, ma un pensiero profondo e radicale. Radio Risacca fa il pieno d'emozione, Radio Risacca per l'autogestione. Radio Risacca spinge l'autoproduzione, Radio Risacca punta all'emozione. Ascolta il sabato su voci dai quartieri, cerca il link e poi ti colleghi. Sintonizzati, non te ne pentirai, sono sicuro che tu l'apprezzerai. 1, 2, 3, 4, lotta al sistema colpi di parole. Il redazionale dice sempre cose vere, le corrispondenze, le rubriche, la musica ribelle e le voci amiche. Radio Risacca fa il pieno di emozione, Radio Risacca per l'autogestione, Radio Risacca spinge l'autoproduzione, Radio Risacca. E da qui dal Parco Pietro Rosa di Ostia stiamo verificando gli ascolti. Piace tanto amore. Ci siete, ci siete. Radio con gli occhi. 5 milioni di ascoltatori per Radio Risacca in questo sabato pomeriggio di autogestione ad Ostia. Farti ridere e poi ti compri. Per chi volesse invitiamo a raggiungerci qui al parco. Dal basso la brezza dell'autogestione è dolce e fresca. Lanciato nello stagno del nostro tempo, smuove le acque, una scelta di campo. Radio Risacca è online, ascolta col tuo cuore, la sentirai. Ascoltate col cuore Radio Risacca, con gli occhi del cuore. Veleno dalle mie radici, se la mia ombra maledici è puro essenza. Tra l'odio e amore per dove provengo sta un'anima che porto dentro. L'aria piena di sospetti, nella zona che si aggira un complotto fantomatico chiamato Costa Nostra. Chi non regge la botta ci va sotto, no, non cambierete i nostri piani. L'UX è come non è stato mai, mangiare merda non mi spaventa e lo sai. Cogli la mia urgenza, stile non classificato, miro in alto per davvero, come la banda Cavallero. E come il nero non si squaglia se controllati sorvegli il mare, dalla parte dei pirati, dai quartieri dove siamo nati. Ma le origini le stesse, se i fighetti ci chiamavano sfigati, zero feste, zero spazio per gli infami, arrivano i caponi, battetegli le mani. Io porto luce dove tutto è buio, quando il gioco si fa duro, perché ognuno ha il suo futuro. Se capisci questo, se assapori qual è il peso, il prezzo da pagare da adesso, ogni volta è da giocare. Sai che non hai perso in partenza, chi porta la consapevolezza sopravvive sulla costa, sulla costa, c'è chi vive e sopravvive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive e sopravvive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive e sopravvive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive e sopravvive sulla costa. Calma nervosa, schierati a fianco, con che missione? Adesso prendi una ragione dalle liriche, zero prediche per chi vive una battaglia. C'è una forza che si scaglia sulla costa, come fossi ipnotizzato, il resto il nemico cerca un... Allora, qui nel warm up di AI di Preonda Anomale al Parco Pietro Rosa qui ad Ostia, verso onda anomale di settembre. Per chi volesse iniziativa Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare, ma soprattutto porta quello che ci manca in questo momento. Per esempio suggeriscono dalla regia piatti, bicchieri, posate, per favore, pallone, una friggitrice. C'è chi vive e sopravvive sulla costa. Bande sberri, chi ci sta? Sulla costa. Che cazzo? Sulla costa. Sulla costa. Chi sarvede, come va? Sulla costa. C'è chi... Quanto costa? Sulla costa. Bande sberri, chi ci sta? Sulla costa. Che cazzo pumisti, guarda? Sulla costa. Luix ci ricorda. C'è chi dice, c'è chi fa. Per chi si fa strada, niente è spianato, ma non è storia. Per chi ci caga, la pool indaga su degli elementi in carica dinamica. Danneggiamenti in teoria come la pratica. Puri colpi, di un merda non li senti. Godo solo nel pensare al dopo, come una partita è stata aperta. Finché dura, senza paura. Quello che ho imparato per la strada va applicato per la causa. Di giustizia di chi ha subito, che non trova spazio nei fascicoli di un magistrato, è scontato, perciò rimane solo il tempo di affrontare ogni cosa sul momento. Un giorno sognerò di nuovo, nel frattempo lascio tracce per il sottosuolo, perché suono come sono, ora è sempre sulla costa, nella quiete c'è tempesta. Si muove, è il mare mosso troppo grosso, ora arco la flotta. E oltre le posate e i bicchieri, l'ottica logica che si dota sul litorale ogni giorno, ogni notte. Potreste portare anche un pallone. Giocati la vita con una passatella. La storia di un dannato, quando è bella, quando è bella. Sulla costa, c'è chi vive sopra, vive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopra, vive sulla costa. Sulla costa, sulla costa, c'è chi vive sopra, vive sulla costa. Sulla costa, sulla costa. C'è chi vive e sopravvive sulla costa. E aumentano gli ascolti qui su Radio Risacca. Ringraziamo già tutti e tutte coloro che si sono collegati in diretta. Incredibile, veramente, gli ascoltatori che si collegano così, dopo. Per non parlare dei colleghi che ci ascoltano, incredibilmente sono arrivati immediatamente qui piatti e bicchieri, quindi vi ringraziamo per aver assecondato le nostre richieste. Quindi se chiedo il gelato, probabilmente tra poco arriverà un gelato. E con i fighetti non si spreca, spinge duro. Gli sta dietro pure chiuso. Mi piacerebbe anche avere un po' di frutta. Caponi sotto la cantina. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. Andiamo veloce e non c'ho scrupoli da mo' dove sto andato. Luis è un nome da indagato per gli sbirri. Non mi invento palle, lo sa come viene in giro. E le rime io mi ispiro qua. Poche domande, non è necessario, sono un capone. Parlo male all'italiano, scusate, merda. Se brucia il fuoco con un fuoco acceso, e se per poco non fare il testo vado. Vomito le cazzate a chi arriva con i caponi in campo. Non esiste partita andata male, com'è? Finisce peggio pure, non mi frega, ma dove sto? Non cerco scusa all'est e come? Io sono della cantina e so chi mi fido, e non mi vuole con un secondino. Questo è lo stile che so fare, dalla costa viene, dalla cantina al mare. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. La cantina è piena di Cafu. Mario, sì, ma c'è che sti gente che vuole proprio qua. Ma come ti vuoi? Delatori, capisci? Le cazzate non invento, ma oggi rispetto e pace. E i cavoli mi sostengono, vago per strada. Eppure se sto fuori, io so che miscele. Di un esonero più sto male, ma in mezzo a questi l'odio sale. La cantina che riparo dalla legge, ogni passo un reato. Voglio correre come se il vento questo affare. Cazzo, lo dico chiaro, ma chi rispetto? Me lo tengo perché un bene raro. Stanno fuori i professori dalla storia. Allora, siamo qui nella trasmissione di oggi anche per dibattere di alcune questioni territoriali. Quindi abbiamo un intervento, una domanda dal pubblico. Una cantina piena di Cafu, una cantina piena di Cafu, una cantina piena di Cafu, una cantina piena di Cafu. Puoi ripetere per favore, gli ascoltatori e le ascoltatrici, non si è sentito bene. Comunque arriva, ok. No, perché no, forse abbiamo sviluppato un piccolo problema d'udito negli anni. E questo era Luix, Luigi, prossimo ospite di Radio Risacca nel 2012. Allora, dicevamo, abbiamo inaugurato le trasmissioni qui a Radio Risacca. Abbiamo una domanda. Una domanda molto banale. Ma un bagnino durante la pausa pranzo può bere una birra? Bene, domanda interessantissima. È una domanda interessante. Abbiamo molti opinionisti qui a riguardo. Però oggi abbiamo l'occasione di avere un bagnino effettivo, un effettivo di Ostia che ha salvato anche delle persone. Non è stato mai riconosciuto questo salvataggio. Anzi, è stato in merito ad altre persone. Per questioni, sì, di natura politiche. E oggi abbiamo l'occasione di far rispondere a questa domanda dal pubblico. Un vero bagnino di Ostia. Solamente quel poco che mi hai dato. Posso regalarti la luce del sole. Ma il problema della birra e dei bagnini è legato soprattutto a una questione politica che vogliamo denunciare. Infatti ci chiediamo perché è possibile guidare e bere la birra, invece non è possibile salvare le persone. Abbiamo anche altri interventi a riguardo. C'è qualcuno che dal pubblico ha un po' di timidezza? Ma la birra analcolica te la vuoi bere in pausa pranzo? Abbiamo anche, sì, abbiamo tanti bagnini qua, il Bretto, cioè, ce l'hanno tutti a Ostia. Io so bagnina e me bevo la Ceres. Te lo darò, odio pieno se analcolica. Un altro trova super bello. No. La canta se è la zona. Sta in campana. Se un massiccio emana vibrazioni, vivo nella zona. Ostiensi, popolo di bagnini. Ho scritto una poesia, ve la volevo recitare. L'ho scritta adesso. Ostiensi, popolo di bagnini. Bagnini, popolo di Ostiensi. Ostiensi. Di, cioè abbiamo una domanda, scusa. Però io stavo dicendo la poesia, così mi hai rovinato proprio il pathos. No, va bene, solo non fa niente, dai. E poi parlate tanto di libertà d'espressione, cioè. Ma che significa Ostiensi? Tutti quelli che abitano vicino alla via Ostiense o solo voi che siete nati a ridosso del mare? Ah, voi siete gli Densi. Sì, diciamo che l'etimologia della parola, insomma, gli Ostiensi dovrebbero essere anche coloro che sono nati sull'Ostiense, che comunque... sì, comunque è una strada romana che cioè, collega Ostia a Roma. Viale Marconi sta a Roma Nord, no? Vabbè, Ostiensi in senso esteso è il territorio di Ostia più la periferia di Ostia, cioè Roma. C'è questa periferia enorme a Ostia che si chiama Roma. Questa enorme periferia... Questa periferia che circonda Ostia alle sue spalle, insomma, soprattutto Centocelle, soprattutto Radio Godzilla, dicono anche. E invitiamo a mandarci messaggi su, per rispondere anche a questa domanda, al numero 3. se si può bere la birra in pausa pranzo, soprattutto se sei un bagnino. E continuano ad aumentare gli ascolti qui su streampunk.cc/voci dai quartieri, la radio autogestita dal 2020 che da piena pandemia ha cominciato a trasmettere nell'etere romanesco dell'internet, e la speranza è che torni in corsa, di corsa, a una nuova pandemia. No. No, aspetta, non era così. Hai letto male. But this is a fight against principalities and evildoers and unclean spirits. RTJ3 motherfuckers. Gray man didn't die face down in the Vietnam muscle, so I cannot style on you. I didn't walk uphill both ways to the booth and back, and I'll wild on you. You think baby Jesus killed Hitler just so I'd whisper? E poi in realtà ce ne sarebbero di cose di cui parlare in radio questo periodo, soprattutto i periodi estivi qui a Ostia, i lavoratori stagionali, lo sfruttamento sul lavoro. Uno dei primi lavori stagionali a Ostia in crisi durante il periodo estivo è quello dell'affitto degli sci, che è un grosso problema, perché l'estate purtroppo chiaramente le richieste calano leggermente, e quindi questi poveri affittatori di sci a Ostia stanno in crisi. E attenzione, no, però il segnale lì arriva. Prove tecniche di secondo microfono. Ma pure questo? Questo si sente? No, si sente, ma non si sente qua, però. Cioè, si sente in diretta. Ah, lo so io perché. Non si sente qui. Eccolo, eccoci qua. Adesso lo sentiamo anche noi. No, perché nonostante gli 8 milioni di ascoltatori, qui siamo anche, siamo altrettanti 3 milioni, quindi non è che solo gli ascoltatori possono godere delle nostre intellettuali chiacchiere. E, no, rispetto a quello che dicevi tu, guarda, l'ironia di Radio Risacca è sempre molto importante, però ricordiamo che nel lontano 2010 il sindaco Alemanno voleva addirittura fare una pista da sci a Ostia. Non è uno scherzo, quindi poteva fare lo speaker a Radio Risacca, per esempio. Lo faceva. Ricordiamo tutti la trasmissione di Alemanno. Che si chiama proprio Sciare sul litorale. Sciare sul litorale durante il ventennio. La pratica dello sci. Ogni tanto fa bene ricordare anche questi scherzi che dal Campidoglio capicollavano sul litorale. Pure la canzone estiva. Campidoglio col bene che ti voglio. Adesso di scherzi. Capodoglio col bene. Anche ce ne sono. Il più serio al quale stiamo facendo fronte è la costruzione del porto, e si parla già di posa della prima pietra nell'area del Bilancione. Un altro spazio sociale sotto attacco, quello del Bilancione, a 10 anni dalla sua occupazione. E una costante, diciamo, di molti spazi di questa città, e continuiamo a mandare anche da questi microfoni la nostra solidarietà a Laurentino 38. L38 Squat, il sesto ponte, da cui la scorsa settimana, insomma, si è svolta un'iniziativa molto partecipata, un'iniziativa di quartiere sotto il segno dell'autogestione, per restituire vita e dignità ad un quartiere anch'esso abbandonato completamente a se stesso. Bet on that you'll be disgracing you and your mind from a beating from a rhyme. A time for a crime that I can't find. I show you my gun, my Uzi weighs a ton because I'm public enemy number one. One, one, one, one, one, one, one. You got no rap, but you want to battles like having a boat, but you got no paddle, cause I never pause. I say it because I don't break in storms, but I break all laws. Written while sitting off it, not bitten, giving me the juice that you're not. E arrivano i primi messaggi al nostro numero di telefono aperto, insomma, il numero 3. Vi ascolto sempre da casa, siete fortissimi, vi lobbo, Giuseppe da Bari. E un altro, senza di voi i miei sabati non avrebbero senso, Roberta da Aosta. Continuate a mandarci i vostri messaggi al numero 3 di Radio Risacca. Soy más coronga de la villa. Ya bien conozco al que sembró mi semilla. No puedo afirmar, sería una pose que me hice de abajo. Todos me conocen, pero te digo, soy duro como Maradona y amargo como un condenado a la horca. Tengo más caras que Bernardo. Y me espanto si me veo reflejado. No, no, no. Subo mi vibra, yo soy mi clica, paro mi rica, listo para todo lo que digan. Te aplasto y me basto. È bello riscoprire il piacere di trasmettere su Radio Risacca, eh? Nonostante poi magari non abbiamo un programma come qualche tempo fa, insomma. Questo è molto più bello. Molto più bella l'improvvisazione. Oggi Radio Risacca ha risposto a una domanda fondamentale di tutta la radiofonia, cioè si può inventare una radio? La risposta è 42. KG flavor, DJ Melody. Oh yes, I presume it's the tunes to make us croon, to make all the ladies mette... Prego, prego. No, parliamo insieme. Diciamo delle cose diverse. Delle cose però. Dai, un, due, tre. Base niente, per quindi ciao, come stai? Intanto continuano ad arrivare avventori al parchetto. Saranno una ventina circa. Come gli ascoltatori che in questo momento sono sulle frequenze della nostra radio. Il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare sono i Walkie Talkie. Walkie e questo talkie. I mezzi di trasporto ed è dedicata a tutti coloro che non sono qui. Soprattutto perché Ostia è irraggiungibile con i mezzi di trasporto. Soprattutto quelli pubblici, ma anche quelli privati. Ah, ti dico, l'altra sera dovevo andare al Pigneto, c'era nei navette su Aromalito una potopia. Non potevo andare tipo dentro Roma perché c'era ZTL e quindi sono arrivato tipo a Torcervare e sono rientrato su raccordo. 20 minuti di incidente me volevo sparare. Sono molti chilometri che faccio vostra insaputa. L'ho parcheggiato a Snia, pannaggia. Non ispira molta fiducia. È la fatica che frena il cammino della persona seconda, lasciando sconosciuto. Tipo la canzone del Costa e Matter Negretto per gra. Ho fatto tempo. La differenza tra passare c'è il giro un tondo, stronzo. Anche se è raro che io cammini avendo persone al mio fianco nel parco. Qualcuno cammina distratto quando io vorrei seguire il percorso. Sul marciapiede invece il mio incedere è marziale. Mentre i miei amici si chiedono dove io abbia fretta di andare. Il passo del singolo in questo caso schiaccia in terra qualsiasi sacro vincolo. Esistono comunque persone con cui cammino benissimo. Percorso fratto stimolo. La metropolitana non è solo un mezzo di trasporto, è un ambiente sociale. E questo fatto è dannoso per coloro che vorrebbero semplicemente andare da un posto ad un altro, tralasciando il rapporto, lo scambio, l'inserimento, il continuo ricordarsi che si è dentro anche nel momento in cui ci si sta muovendo. Qualcuno di noi riesce ad essere tranquillo, qualcuno si difende osservando, scuotendo il capo. Qualcuno lo ammiro perché non sta pensando al contesto, bensì alla gioia di spostarsi utilizzando più volte lo stesso biglietto. Qualcun altro la vive peggio, grondando ad ogni sguardo. Io mi guardo bene le scarpe, considero le sbarre di ferro, il pavimento ritmico, le porte scorrevoli si aprono ed io non provo niente, niente. Ma niente. mezzi di trasporto con il motore a scoppio. È arrivato un messaggio al nostro numero 3 e ritorno al discorso di prima. Comunque volevo intervenire sui bagnini e secondo me a Ostia non servono, Giorgio. Grazie Giorgio per il contributo. Ma si tratta di comodità programmata che svanisce man mano che avanza l'obsolescenza industriale calcolata, cosa che noi non tocca. La nostra scelta ricade su di un mezzo che poi, se ci pensi, i bagnini sono cose e persone possibili, dei piccoli bagni. In autostrada non riusciamo nemmeno a superare i limiti intorno a noi. Cerchiamo di raffreddarci in questo pomeriggio caldo in ogni modo. Tra un po' di tempo uscirà un nuovo prototipo, perché nonostante la brezza dell'autogestione sia comunque fresca, fa caldo, stiamo sudando. Ho scritto un'altra poesia. Che bello. Ricordiamo che Radio Risacca autoproduce anche molto poesie, sonetti, prosa e in rima, teatro, novelle, teatro, colossal cinematografici. Che palle il teatro. È un piacere viaggiare su di un ammasso di sedili e lamiere. Disconi, dischi il mese scorso, però. Disconi. È pubblicato, è stato pubblicato il mese scorso un disco di Radio Risacca, ce lo siamo perso, è passato già un mese, no? Chissà dove sta. Stai mica pensando di tenere tutti questi errori e basta. No, io no. Ma scusa, no, poi hai dato la parola a Paraculo. Una web radio di quartiere, così si definisce Radio Risacca, emittente autogestita, probabilmente vicina agli ambienti dei centri sociali. Ascoltiamo il nostro inviato, Pasquale Scattanacasba. La noia, la periferia e probabilmente i legami con Al Qaeda e con le infiltrazioni mafiose di casa nostra. Non si esclude la mano di mafia capitale e al vaglio degli inquirenti le connessioni con gli zingari e probabilmente con gli anarchici. Si parla anche di immigrati, quelli arrivati qui con un barcone. Qualcuno l'ha definita una radio di senza tetto omosessuali, si dice persino di origine ebraica. Ha quasi un anno ormai Radio Risacca, una web radio, ma più semplicemente potremmo chiamarla una radio ribelle che, in barba alle leggi sul copyright, continua a trasmettere ogni sabato pomeriggio musica autoprodotta, a mandare notizie dal territorio del mondo e pubblicare delle incredibili e oltraggiose rubriche. L'appello delle associazioni per le famiglie, insieme con il Vescovo di Ostia, i comitati delle mamme buone e dei papà indirizzati dritti per bene, è quello di chiudere Radio Risacca. Ma per il momento le istituzioni non riescono a fermare la loro comunicazione antagonista. In attesa che ci sia una giusta censura, non ci resta che ascoltarle e riflettere sulla decadenza di queste iniziative che vorrebbero avere la pretesa di portare una critica radicale all'esistente, che per quanto ci riguarda invece va più che bene così com'è. Da Ostia Cile a Fiumicino è tutto e la linea a voi studio. Servizio degno, mi ricorda i tempi in cui lavoravo alla Radio Vaticana. E questo era, insomma, il TG5 quando ci citarono, quando ci citarono nel loro seguitissimo TG, molto imparziale, poi non di parte. Onda Rossa posse! Madonna, 40 anni fa. 30. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Fotti il potere. Batti il tuo tempo. Perché fotti il potere? Batti il tuo tempo per fottere il potere. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Questo è il nostro tempo. Ti sta fermando perché non è saltante. Ma io lo voglio battere, sì, per farlo grande. Non posso perderlo per aspettarti sacche. Chi da te? Tipo non state calmi, ma tanto io li vedo in armi che ci stanno cercando. Guardalo un cavallo, a sesta segna il soldo. Maiali! Qual è la ricompensa? La vostra ricompensa per il leon camorto. Non posso fermarmi di questa spaccatera d'armi, perché solo rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio, non invento niente. Cos'altro potete dirti? Dimmi, non posso consigliare.

Mi bevo il caffè, non il cappuccino. Poi scendo per strada, fratelli che belli. Il sole li radia a fili coltelli. Saluto il droghiere, saluto il vicino. Un giorno qualunque, un giorno divino. Col senno di poi mi faccio due passi. Parlo con gli alberi, mi parlo, mi sa. Sono DJ Bob Pirla. Radio Risacca è la mia famiglia. Sono un DJ Pirla. La mia radio, ti invito a seguirla. Quartieri feriti e abbandonati, sentite le voci, ne siete colpiti di perle di fango. Mi nutro ogni giorno con l'erba di campo, ci faccio il conto. Poi quasi assonnato risalgo su casa, DJ Bob Pirla fa tavola rasa. Morire ogni giorno è l'unica storia, poi di ogni morte averne memoria. Sono DJ Bob Pirla. Radio Risacca, la mia famiglia. Sono un DJ Pirla. La mia radio Risacca, ti invito a seguirla. La lotta, la botta, la pace si è rotta. Se c'è l'ingiustizia mi sale tristezza. Poi mi ricordo che esiste e resiste. Un cuore che batte una piccola peste. Si chiama Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Radio Risacca. Spacca. Ti dà una pacca sulla tua spalla, ti passa la palla, poi il tiro sta a te. A farti domande, a porti questioni, in questo tempo con poche ambizioni. Se oggi c'è il sole è solo perché qualcuno si è mosso, fallo anche te. Non sparo, non mevo, non muovo le braccia, del genio ribelle, io vado a caccia. Sono DJ Bob, DJ Bob Pirla. Radio Risacca, Risacca è la mia famiglia. Un DJ Pirla. La mia radio, ti invito a seguirla. Se poi usi in danaga, se vuoi una semana senza scendere. E questo per assecondare il nostro amico Pino, che ci ha segnalato da Salerno che insomma mancava un po' di musica neomelodica a proposito di canzone italiana. Un pezzo tra l'altro dal grande contenuto politico, come quello precedente, forse di più. Forza storia mia, l'immaginava ancora prima e comincia. E continua l'affluenza qui al parco di Pietro Rosa al warm up di AI autogestito. Un piccolo ma potentissimo e fighissimo spazio di riappropriazione in un parco pubblico qui a Ostia, aspettando l'evento autogestito dell'anno a settembre. Lo stiamo pubblicizzando così tanto oggi che poi se non lo facciamo chissà. Mi dispiace solo per i Guns N' Roses, perché ci sono andate meno persone del nostro di warm up. L'avevamo pure invitato Axel, ma ha rosicato perché ha detto: avete venduto più biglietti voi. A tutti e tutte e tutto. Gente che va, gente che viene. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Si è liberato quindi un posto qui al parchetto di Pietro Rosa, quindi se qualcuno ha intenzione di venire, era stato scoraggiato perché i biglietti erano finiti. si può presentare al botteghino dicendo la parola d'ordine che è l'elefante rosa. Da semplice può fare libero senza paura, senza manna scondere, per non farsi giornate senza vivere, per non morire così senza campare. Senza fare niente me ne torna a casa. Possiamo fare un quiz agli ascoltatori? È il momento del quizzone. Ma secondo voi bisogna mettere benzina al generatore? No, no. La risposta collettiva dei nostri mille spettatori è no. Te l'avevo detto io. Che non si dica che non si decidono le cose tutti insieme, non si rispetta la volontà del gruppo. Pilastro dell'autogestione è collettivizzare le scelte. Ed anche quando sono scelte stupide bisogna, tipo, bisogna mettere il benzina, no. E poi si spegne tutto. Se lo di mia madre impazzisco io, ho bisogno di una dose per vivere a modo mio. E se ho fatto questa musica neomelodica sta palesemente facendo calare gli ascolti. E adesso quando chiudo gli occhi, il prezzo da pagare per mettere questa musica alternativa. Questa si chiama Maledetta Droga. Napoli Oggi. Parla di noi. Lui chi? Lo vorrei. Si può fare una radio in un parchetto così, senza... sì. D'alcol, quando vai in palestra poi ti puzzano i piedi, quella che prendi per digerire. Sono proprio te che fai il professore, il gesso pure a polvere. Ah, ormai ci sono le lim, il gesso neanche si usa. Ah, ok, ok. Qualcosa, la poesia, no? Qualcosa si muove nell'aria all'orizzonte. Qualcosa si muove nell'orizzonte, nell'aria. L'atmosfera passa insabbiata, l'agendo tornante dal mare. Dimentico degli ombrelloni, delle straia e della pesce finta che sguazzano nell'acqua. Passa la gente finta come lo pesce, vestita come albero di Natale. Passa, ma non passa mai il litorale. Ma veramente, applausi, applausi a Caterpillar che è qui con noi. No, non è vero, non è raga del PIL. Allora, a questo punto è il momento in cui dobbiamo parlare di noi e dei nostri problemi. Ma problemi politici, problemi... Problemi di vita. Per esempio, a me ultimamente si allaga il bagno e non capisco da dove esce l'acqua. Questo è un problema se si abita in un condominio, perché se abiti da solo puoi anche cambiare punto di vista. Pure se abiti isolato. Vi racconto la mia esperienza in questi giorni di esilio forzoso. Allora, ho chiamato il tecnico del pozzo per capire perché tengono pozzo nella campagna. Ho chiamato il tecnico del pozzo per sapere, lui mi ha detto: prova tutte le valvole. E ne ha svuotata soltanto una, la quale valvola mi ha allagato la casa completamente. Ho dovuto rifuggire la casa tramite secchi a mana, e quindi dico, se ti si allaga il bagno, la radio sta andando lo stesso. Allora abbiamo trasumato l'acqua con lo secchio a forza di mani e di braccia. È per questo che adesso toccherà trasumare un poco di benzina per far funzionare il generatore. Ma passo la voce al regista. Resistere. C'è una marea di gente! Sì, tutti per voi sarà un grande successo! Oh, Torniamo in onda con la voce dopo questa piccola interruzione, perché come prima stavamo dibattendo, insomma, di mettere benzina, non mettere benzina, la risposta della pelle è stata no, e alla fine è successo che è finita la benzina non stiamo scherzando, quindi adesso praticamente noi non ci sentiamo più. Infatti dicono: ma come fai a parlare? Come fai a parlare? Non si sente un cazzo qui al parco, ma loro quelli che i nostri 10.000 ascoltatori, gli ascoltatori delle radio che sono collegati adesso, vedi? Sì. ci stanno, ci siete amici e amiche di Radio Risacca, quindi coloro che ci stanno ascoltando praticamente stanno sentendo quello che noi qui non sentiamo, perché è finita la benzina e in più non si accende più il generatore. Io vorrei parlare del rapporto dell'autogestione con i gruppi elettrogeni. Vorrei parlare del perché dobbiamo, cioè del rapporto che abbiamo noi in generale come compagni, cioè con le cose. La stessa cosa che ho detto io. No, col gruppo, però più tipo, cioè perché? La domanda, secondo voi dobbiamo mettere benzina? Abbiamo risposto no. Cioè, perché? Questa è la domanda. Cioè, perché abbiamo detto no, e poi è finita davvero? Questo è il dilemma. Confidavamo che durava. Infatti, ho scritto un'altra poesia. Vai con la poesia, secchetto. Confidavo che durava, ma non durò. Naiku. Veramente bravo. Grazie. Bravo, secchetto. Grazie. 8.000 su calate. Vabbè, piano piano. Prima eravamo 15.000. Piano piano qua il sole sta calando. Sì. La temperatura è di 12 gradi centigradi. Comunque, signora mia, si stanno accorciare le giornate. Ostia Beach, palme, reggae e Bob Marley. Questo è lo scenario che abbiamo davanti. Spiaggio. Una piccola Giamaica, questo parchetto. Vedo tante collane di fiori. Una piccola Giamaica con la temperatura del circolo polare artico. Cioè, infatti, un furgone con il logo di Canale 10. Guarda, la televisione di Ostia. La televisione di Ostia. Siamo qui, amici, veniteci a fare le interviste. Canale 10. No, è il Canale 10 davvero. Sì. Adesso verranno qui, diranno: ma quest'orda, questa schiera. Cerchiamo di raccontare ai nostri cari amici ascoltatori cosa sta succedendo, cioè niente proprio di meno che il canale del litorale romano, cioè la televisione di Ostia, ma non quella non ufficiale, proprio quella vera. Sì, la Rai praticamente, però la di Rai Ostia. Di Ostia, che si chiama Canale 10. Poi sintonizzate i guarda posti. Io la maglietta mia 10, ovviamente 10. Francesco E niente. Gli operai che abbiamo chiamato, la squadra di tecnici. Ma vediamo se siete informati. Chi lo paga Canale 10? Attenzione, domanda. Noi con le nostre tasse. Chi lo paga? Ah, un nome a caso, dai. Falconi, presidente del municipio. Peggio. Berlusconi. po' più sotto, più sottoterra. La regina Elisabetta, che è un po' più sottoterra. Quasi, quasi, Marley. Siamo quasi, siamo quasi. Axl Rose. Ah, misuratelo dai programmi che trasmette. Ah, non la vedi? Bordoni. Allora, diciamo, chi è? Inizia per P e finisce con Agni. Papagni. Abbiamo questo bellissimo. È sempre lui, Lord del Litorale. Mazza, strano, non l'avrei mai detto. Fior di programmi che difendono i balneari tutta la vita. La balneazione. Fanno pure quel programma direttamente sulla spiaggia con Parruccone. Comunque vi consigliamo a tutti di vederlo, Canale 10. Intanto c'è Parruccone, che è giornalista di punta, che da quando eravamo ragazzini non è mai cambiato, perché in verità è un robot. Sì, no, sai che è? Che comunque nella periferia di Ostia, cioè Roma, non seguono queste cose, troppo alto locato. Sappiate che prima o poi, cioè, Rai verrà soppiantata da Canale 10. Quindi quel giornalista là è un cyborg, ma va bene lo stesso. Sicuramente. E niente, quindi qui in diretta da Radio Risacca, Voci dai quartieri, e noi non sentiamo quello che stiamo dicendo, neanche qui ci siamo proprio tappati le orecchie. Ma diciamo quello che sentiamo dentro. Esatto. Mamma mia, oggi te la senti poeta. Porco mondo. Comunque il gruppo elettrogeno ci ha abbandonato, come era prevedibile, senza ricaricare la benzina. La cosa divertente è che non si è mai più riacceso. Vabbè, a questo punto ascoltiamoci una canzone che dedichiamo a chi? Ai balneari di Ostia. Così. Grandi balneari. Dai, almeno questa è per voi. È per voi. Aspetta, ecco. La senti, ecco. Sta per partire, ecco. Dove? Sul binario. Sul binario. 3, eccola. Anche questo c'è da dire. Mi dai fastidio. Imprenditore. Mi dai fastidio. Mi dai fastidio. Ristoratore. Mi dai fastidio. Ripetitore. Mi dai fastidio. Animatore. Mi dai fastidio. Amministratore. Mi dai fastidio. Coordinatore. Mi dai fastidio. Educatore. Mi dai fastidio. Ascoltatore. Mi dai fastidio. Adulatore. Mi dai fastidio. Ed eccoci tornati in voce qui dai microfoni di Radio Risacca, Voci dai quartieri, e prosegue la situazione di estremo disagio. Siamo testimoni di una situazione veramente surreale in cui stiamo facendo la radio. Immaginatevi un tavolo in mezzo a un parco pieno zeppo di persone, ma la nostra voce non esce. Ma non solo la voce, neanche la musica che voi sentite. Qua da qui non esce più niente. Perché adesso è finita la canzone. Quindi praticamente io e te sembriamo dei matti che parlano. Ma siamo dei matti. Che parlano col microfono. Tipo... Dai, parliamo. Continuiamo a parlare col microfono senza che nessuno ci sente, ci guardano e diranno: noi, ma quelli saranno matti. Parliamo di noi. Sì. C'è chi si collega col telefono e ci ascolta al telefono anche da qui. Però è molto bello, questo è il warm up di warm up di onde anomale, che è questa iniziativa che facciamo tutte le volte, tutti gli anni, la quarta edizione. Di solito facciamo sempre a luglio, quest'anno abbiamo deciso di rifare questa cosa qui così estemporanea. C'è un'occupazione indebita di suolo pubblico dove abbiamo messo tavolini da mangiare, da bere, e saremo circa 7-8 mila persone. Unplugged. Stiamo facendo Unplugged, ahimè. È così. È andata così. Però sta andando benissimo, sì, perché alla fine i nostri 100.000 ascoltatori ci stanno ascoltando. Penso che... No. Vedi? Facciamo più schifo dal telefono. Sì, perché è sempre così. Quando risenti la tua voce c'è sempre un certo disagio. Anche se mo con i vocali diciamo che è una pratica abbastanza... Io odio i vocali. Ormai... No, perché così ci sento, cioè si trasmette... Comunque l'iniziativa piano piano sta avvolgendo al suo termine. Sì, abbiamo fatto il pomeriggio, l'aperitivo. Comunque diciamo che ogni situazione per cui ci si riesce insomma ad auto-organizzare, ad autogestire anche provvisoriamente uno spazio pubblico è sempre una cosa bella, nel senso certo, che... porca miseria, siamo andati al parchetto, abbiamo montato i tavoli, abbiamo montato la radio, siamo messi a fare la trasmissione, sono venute 30.000 persone. È venuta, cioè, poi cioè, è andata pure bene. Ma cioè, sta andando bene a tutt'ora, nonostante che prende, qua c'è il silenzio, c'è la cosa principale nostra qua era, cioè, no, te devi immaginare la situazione. Qua ci doveva stare la musica, la voce, no? Invece non c'è più, cioè ci siamo solo noi. Però la cosa bella di avere una radio è proprio questa, che comunque nonostante, ecco, qua non si sente un cazzo da casa, certo. Da casa o dove, insomma, dove cazzo stanno, no, gli ascoltatori, le finché dura, finché dura la batteria del computer, tutto bene. Poi per fortuna tu hai un buon computer. No, ma l'ho comprato alla, diciamo, Digital. Esatto. Ma dove l'hai comprato? È un negozio di computer che si trova a Ostia, che fornisce l'assistenza su tutti i tipi di dispositivi digitali. Anche voi fate come noi, fate come noi di Radio Risacca. Potrebbe essere una pubblicità fighissima, tipo: oh no, ci si è rotto il gruppo elettrogeno, è tutto spento. Per fortuna ho comprato il mio computer da batteria che dura 9 mesi e poi esce un... E quindi... Niente. Quindi no, non mi sembra stia andando però bene. Però è tutto molto bello. Secondo me a questo punto sentiamo un'altra canzoncina, così tanto tra un po' calerà il buio. Sì, qua al tramonto, insomma, l'obiettivo era stare qui fino al tramonto. Sì, l'obiettivo era occupare. No, la cosa di cui mi andava di parlare, insomma, è che domani vogliamo la chitarra, e l'ukulele non l'ha portata. Non sono ancora capace di suonarlo. Lo suoniamo. E quello che stavo a dire, che domani c'è l'iniziativa al Ben Ci Venga, questo dobbiamo dire, c'è l'iniziativa al Ben Ci Venga con i malesiani, a cui andremo sicuramente tutti quanti, proprio tutti là. No, l'era ironico. Smontiamo la radio e si va. Esatto. E quello poi no, ce lo dobbiamo andare, perché è il motivo pure per cui non abbiamo fatto questa warm up domani. Che noi volevamo proprio farla domani, c'è stato un... Ti stanno chiamando? No, non la facciamo. Ti stanno chiamando al telefono. Ben Ci Venga, c'è il... Lascio un attimo il microfono. Fai come Giovanni. E quindi rispondiamo al telefono, facciamo cose, mandiamo una canzone. Quando la solidarietà internazionalista che agisce sta succedendo una cosa veramente meravigliosa. No, no. È successo. Sono venuti degli amici simpatici. Degli amici che ci hanno provato a dare una mano a riparare il generatore. Ciò nonostante, vedendo il nostro gruppo tecnico molto in difficoltà. Vabbè, perché non pensa che se ne sono andati. Sono durati 5 minuti. No, no, ma i contatti col quartiere ci sono stati. Se tu vedevi le persone che camminavano, ballavano. Quando abbiamo fatto la classifica di Sanremo, la gente ha ballato, si è fermata. È stato bello anche vedere una risposta dai pischelli e le pischelle. Avete provato a girare la levetta on, off, due accende e spegne? Pensa se dicevano no, stava su off. Vabbè, è andata così. È andata così, quindi ok. Infatti, sì. Diciamo che il problema è più grave di quello che sembra. Dimmi se questo che vuoi pure no, dillo. Vabbè. Non ci abbiamo la che, quindi chiediamo a tutti i nostri ascoltatori di portare una chiave per la candela. Una chiave per la candela. Una chiave a tubo per la candela. Sì, no, sì. No. Siamo in diretta. Sì, sì. E secondo te perché sì, stiamo condividendo con i nostri ascoltatori questo momento di discussione interessantissimo. È come se fossero qua, è bellissimo. È la magia della radio. La magia dell'autogestione. È una cosa meravigliosa. La magia. No, vabbè, raga, ma sono pure aumentati gli ascoltatori. Non ci posso credere. Cioè. Io l'ho detto. Te pareva? Oh. L'ho detto io. Oh, sono aumentati gli ascoltatori un'altra volta. Ecco, lo vedi. Cioè, te pareva? Oh, siamo in questo momento. Ma difficile. Disconnettetevi. No, no. No, sta andando alla grande. No, no, no, no. Ecco, adesso arriva anche le persone, l'inizio ecco. Si incazzano, non si sente ecco, niente. No, lo sta funzionando niente, ma è sempre quello il bello. Esatto, l'appello ai compagni e le compagne è quello di raggiungerci qui al parco e portare una chiave per la candela, perché siamo proprio attenzione, indietro. Forse abbiamo una chiave per la candela. Un nostro ascoltatore sta andando in macchina a verificare se la chiave attenzione, è presente. Attenzione, ma che bello, ma questa è proprio l'autogestione, cioè, ma pensa te poi questa magia da radio che fa sì che della gente che sta a 5.000 km da qua, esatto, cioè quelli che ci ascoltano, che ne so, da Ulan Bator. Sì, da Dakar. Sì, apriamo un'altra birra e nel frattempo vediamo se questo problema si risolve. Forse ci sentiamo un'altra canzone intanto. Vai, sì, dai, mettiamo sì, dai. Altra musica. Cioè, vi sentite un'altra canzone? E vi aggiorniamo, Sì, che tra l'altro non è che sentiamo noi, giustamente. La sentono solo chi sta ascoltando buon la radio. Buon ascolto, ma rimanete incollati per sapere come andrà a finire, sì. Se riusciremo entro la chiusura di questa fantastica giornata. E fate ascoltare i vostri amici, amiche, compagni. Esatto, e come compagni. Sta andando, perché qui è thriller la situazione. Sì, cioè, riusciranno i nostri eroi al parchetto a rimettere la musica, il gruppo elettrogeno, lo sapremo solo tra pochi minuti. Grazie ai nostri amici di Anzio che ci. Grazie ai nostri amici di Anzio che ci. Arrivano si sono messaggi, sì. Che si sono offerti di portarci le cave, ci vorranno circa 50 minuti. Però. Speriamo Anzio, di risolvere prima. Da Anzio, sì, è un po' lontano. Mi è Nananz. Comunque, sentirci così. No, sentirci con ritorno no, così è impossibile, guarda. Non proprio. So se ce la faccio. Perché poi uno smette di parlare. Vai, andiamo con la musica. Sentiamo con la musica. Vai con la musica. Vai, DJ. Io non mi arrendo, mi giornate passano come il treno alla stazione. Un'autobomba vedo là, chissà quando esploderà. Buon compleanno, questa chiamata è per me, ruote che baciano la strada. Rapporti vuoti vivono con le orecchie lucide. Nello specchietto il diavolo mi sorride. L'autogestione vince sempre. Sa sa sa. Attacca. Oi. Nulla e niente per te e per gli amici tuoi. Ora un posto ce l'hai e lì cantate oi. Asociale, asociale, oi oi oi oi oi oi. Asociale, asociale, oi oi oi oi oi oi. Grazie. Quando basta un ukulele per fare la differenza. Assolutamente, assolutamente, bellissimo. Dai, facciamo un altro pezzo qui live, ukulele e voce. Solo per voi, lo sentite solo per gli ascoltatori. Noi, scusa. Non li so io. Non mi sono mai accorti. Over the Rainbow. Non mi ricordo, la sapevo fare. No, non ho le capacità per cantarla. Sapevo fare la via in cosa. La via in rosa. Non mi ricordo. Yeah, bravi! Grandissimi! Meno male, grazie. Oh! Senza di noi! Sarebbe. Avete salvato la giornata completamente. Vabbè. Detto questo, che vogliamo fare? Stiamo un altro po', vogliamo staccare, vogliamo fare? Addirittura. Ah no, okay, c'è l'ultima prova qui col gruppo elettrogeno per vedere se riusciamo a, insomma, a risolvere questo problema. Oppure niente, chiuderemo l'iniziativa così e speriamo, insomma, che. Ma bene, bene, dai. Non so, va bene. Vediamo un po'. Possiamo, cioè, in realtà potremmo fare anche qualche altro intervento qui, sì, in radio. Sì, voglia, possiamo fare un sacco di cose, sì. Cioè, voglio dire, stiamo qua apposta con quello che ci pagano, poi. Non possiamo deludere, no, le, no, aspettative. Però ascoltiamoci un altro già brano. Già ci hanno, dai, tirato due pomodori dell'Ateneo. Sì, ci hanno tirato i pomodori. Dell'Ateneo. Vai con la traccia. Luci da bene dentro la mia vista. Il verde invade la città, quella curva va diritto. Ci pensi tu per domani, interessi a volontà. Spaghetti, il calcestruzzo è buono, la follia è normale quando sei in folle, lunga lunga è segno che tu hai grosse vedute, grosse vedute, grosse vedute. Oh, Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe e del moro arrossano il cimiero di identico colore, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amore. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare il lavoro. Chi poi impone alla sposa soave di castità la cintura ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chiave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore. Quand'ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amore, nel folto di lunghe tracce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sole. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulzella, disse re Carlo scendendo veloce di sella. De cavaliere non vi accostate, già d'altri è gaudio e sulle nade sono due volte è così quando allora, ho fratelli dentro sì, e sulle nade di così. Carlo Martello, di Fabrizio De André, concludiamo questa meravigliosa giornata di radio. L'operazione di rescue gruppo elettrogeno non sono andate molto a buon fine. Anzi, adesso quindi... abbiamo una raccolta fondi per riparare il generatore, sì, quindi... la trovate su www.raccoltafondiperiparalgeneratore.it. Mi raccomando, iscriveteci alla nostra mail xyz@raccoltafondiperiparalgeneratore.it o al nostro numero di telefono 3. E quindi vi salutiamo. Vi salutiamo, è stato veramente figo riparlare su Radio Risacca dopo tanto tempo. Ricordiamo che la radio Voci dai Quartieri comunque trasmette ormai da qualche mese 24 ore su 24, nel senso che è sempre, cioè il server è sempre connesso e trasmette musica 24 ore. Quindi se non c'avete un cazzo da ascoltare, dico, mettiamo Voci dai Quartieri. Esatto. Come no, certo. A questo punto la base è Radio Default dei nostri amici e amiche castellanesi che salutiamo con amore. Sì, sì, ma ci riascolterete presto e quindi vabbè, ricordiamo che questo era semplicemente un warm up, un DI warm up verso Onde Anomale. Onde Anomale che si terrà a settembre, giorno ancora da definire, esatto. A una certa di settembre, con una line up da paura dei livelli dei Pink Floyd, Jim Morrison. Altro che Guns N' Roses. Un saluto! Un saluto, ciao, Radio Risacca, ciao a tutti e tutte! Dai!